Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ci occuperemo della vicenda Terni, e non solo, non tanto per gli scontri che purtroppo ci sono stati, la carica della polizia, le polemiche anche in corso in questi minuti su cui vi hanno aggiornato i nostri GR24, ma per capire intanto quali possono essere le prospettive in una vicenda che abbiamo già avuto modo di coprire in queste settimane, che ha del paradossale, perché poi verremo anche alla cronaca, ma tutto nasce da una decisione dell'antitrust europeo che a noi sembra, l'abbiamo definita un po' lucidare i pomelli del Titanic, cioè occorreva che ThyssenKrupp vendesse l'acciaio speciale Terni, che per inciso è uno dei principali produttori al mondo di laminati piani di acciaio inossidabile, ha un giro d'affari di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Perché c'era una posizione dominante quando passò sotto il gruppo di ThyssenKrupp, e appunto la decisione arrivò dall'antitrust europeo. Si è fatto notare all'antitrust europeo e al governo italiano che il ministro Guidi dovrebbe andare a Bruxelles a portare avanti anche questa posizione, che mentre noi siamo lì a controllare con i centimetri le posizioni dell'acciaio, nel resto del mondo, dove non esiste l'antitrust mondiale, si stanno generando dei colossi planetari sull'acciaio, per cui i nostri temi di antitrust scompaiono. Mi riferisco a ArcelorMittal, mi riferisco a Rio Tinto, cioè colossi che operano su base planetaria, in cui l'acciaio si sta spostando soprattutto sotto il controllo indiano, ma non solo, fanno acquisizioni, fusioni. E quindi l'intero inghippo, diciamo così, della ST Acciai Speciali Terni nasce per l'obbligo imposto a ThyssenKrupp di cedere anche la ST Terni per evitare posizioni dominanti in Europa. Ripeto, se uno guarda il mondo dell'acciaio, l'Italia è il secondo produttore ancora di acciaio in Europa, deve guardare su base mondiale, perché da questo punto di vista sarebbe come non tener conto che nell'information technology i player si chiamano Google, Apple, Facebook, Twitter, e avere una visione solamente puramente continentale. Detto ciò, vedremo di capire quale soluzione può essere presa. Moltissime le polemiche politiche sulla carica della polizia. Parleremo anche del resto dell'acciaio. C'è la Galtarossa di Verona che a novembre e a dicembre manda in cassa integrazione i suoi operai. È chiaro che lo fa non perché le piace, ma voglio dire, immaginiamo anche il dramma di persone, di famiglie che vedono il genitore in cassa integrazione in un periodo come novembre e dicembre. Il caso dell'Ilva, dove ieri il GIP ha accolto la richiesta, e lo abbiamo raccontato, di Piero Gnudi, del commissario straordinario, di sbloccare e trasferire nelle casse dell'Ilva 1 miliardo e 200 milioni di euro sequestrati dalla Procura di Milano a Adriano Rive, a due commercialisti che saranno destinati all'aumento di capitale dell'Ilva e serviranno per bonificare il polo dell'Ilva, come previsto dall'autorizzazione integrata ambientale. Quindi questa è una buona notizia in un panorama molto difficile. Sullo sfondo, e poi andiamo al resto, bisognerebbe anche, quando si parla di politiche industriali, no? si usa sempre tanta retorica, ma insomma questo paese e il governo e i suoi ministri devono decidere se l'acciaio è ancora un settore strategico, visto che siamo il secondo produttore, ripeto, in Europa, per questo paese, oppure se non lo è più. Poi qualcuno ci spiegherà quali sono i settori strategici, e allora rinunciamo alla difesa completamente dell'acciaio italiano. Allora, ancora per quello che riguarda gli altri temi, oltre all'IVA, c'è il tema di Fiat, che è un tema anche di borsa. Perché lo dico? Perché il titolo Fiat Chrysler guadagna il 12,20% oggi. La notizia che più sono usciti i dati oggi di Fiat Chrysler: l'utile netto del trimestre è in linea con l'attesa, 188 milioni, i ricavi salgono del 14% a 23 miliardi e 600 milioni, l'indebitamento industriale cresce di 1 miliardo e 7, I target, gli obiettivi per il 2014 sono tutti confermati con un utile netto tra i 600 e gli 800 milioni e le consegne di veicoli, qui ragioniamo però ormai del marchio Fiat Chrysler, non più solo Fiat, sono cresciute del 10%. La notizia, dicevo, che però è stata più ripresa riguardo alla Ferrari. Ferrari infatti sarà scorporata da Fiat Chrysler e verrà effettuata con un'offerta pubblica di una parte della partecipazione di Fiat Chrysler in Ferrari pari al 10% e verrà collocata in borsa. La Ferrari sarà un titolo trattato alla borsa di New York e in un altro mercato europeo, non si è ancora capito quale altra borsa europea. Marchionne si è definito ottimista sul 2015, anche di questo parleremo, e poi l'attese sulla legge di stabilità da un lato, ma sull'economia americana dall'altro. Questa sera infatti c'è la riunione della Federal Reserve, del FOMC, della Banca Centrale Americana. C'è chi ipotizza in maniera forte che già con oggi possa terminare il programma di stampaggio di moneta, come lo chiamiamo noi, il quantitative easing della Federal Reserve. Ricordo che ha già ridotto in due tranche, è arrivata al terzo giro, ha già ridotto moltissimo l'America i dollari che stampa ogni mese. Da 80 miliardi siamo scesi a 10 miliardi di dollari al mese, da 85 miliardi. In questo modo però la Federal Reserve in questi anni ha pompato nel sistema americano qualcosa come 1600 miliardi di dollari. Attese per questo, e ne parleremo con Mario Platero nel giorno in cui, per meglio dire domani, sarà online anche il quotidiano digitale del Sole 24 Ore in inglese. Quindi è la prima volta che l'Italia viene raccontata in inglese, ma non dai corrispondenti stranieri. Massimo rispetto, ma giustamente a delle volte hanno un'ottica così, un po' di parte, ma viene raccontata attraverso i giornalisti italiani. Il prodotto si chiama Italy 24 e vi partecipano tutti i giornalisti del Sole 24 Ore, oltre che gli editorialisti e i commentatori. Vi sono video, gallerie fotografiche e anche grafici interattivi. Ne parleremo più avanti. È importante perché, ripeto, raccontare questo paese con i suoi pregi e i suoi difetti in inglese, ma scritto da giornalisti italiani, beh, forse aiuta a dare un'immagine ancora più completa di quella che è l'Italia all'estero. Molto bene oggi in borsa anche Xor, più 7,70%, CNH più 1,91%, UX più 1,90%. Chi perde invece sul fronte cali, di nuovo molto pesante il Monte dei Paschi, la situazione si fa, come già raccontavamo ieri, incerta sulle soluzioni da intraprendere, meno 7,50%, ormai siamo scesi a 73 centesimi di euro per azione. ST Microelectronics meno 10, male tutti i bancari, soprattutto le popolari oggi, meno 5,70 la Pop Milano e la Pop Emilia Romagna, meno 5,40 il Banco Popolare, male anche UbiBanca meno 4,30 e Unicredit meno 4,40, Intesa meno 3,70%, Unipolsai meno 3%. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, no, torneremo anche sul tema dei soldi tagliati ai non autosufficienti tutti i giorni finché non dovessero arrivare buone notizie, anche paragonando quello che capita in altri sprechi della nostra pubblica amministrazione. Ma andiamo con ordine per quello che riguarda l'economia internazionale. L'attesa più importante, come dicevo, è quella della riunione del Federal Open Market Committee di questa sera della Federal Reserve. Per quello che riguarda la Germania, di nuovo un'asta tecnicamente scoperta, ossia che non ha avuto abbastanza compratori. Anche oggi la Germania ha provato a collocare 4 miliardi di titoli di Stato a 10 anni, ne ha venduti solo 3 miliardi e 200 milioni, il rendimento era a minimo storico, lo 0,87%. Deutsche Bank, che comunque ha passato i test, una delle grandi, così, grandi sorprese di questi test della BCE, ha chiuso il terzo trimestre con una perdita netta di 94 milioni di euro contro un utile di 41 milioni un anno prima, appesantita dalle spese legali nelle cause che la vedono accusata di aver manipolato il mercato valutario e dei tassi di interesse. Lo scandalo Libor, il titolo della maggior banca europea, perché Deutsche Bank è la maggior banca europea, perde l'uno, è arrivato a perdere l'1,5% alla borsa di Francoforte. Collocati invece tutti i bot italiani a 6 mesi, 6 miliardi e mezzo ne abbiamo collocati, quindi un ammontare consistente. Il rendimento medio è salito dallo 0,23% dello scorso 26 settembre allo 0,37%. La domanda è buona, da 1,8 a 1,7 volte l'offerta, per cui non ci sono problemi sulla domanda. Certo, il rendimento è salito. Sempre sul fronte europeo, oggi il commissario agli affari economici, il finlandese Jyrki Katainen, ha detto: l'Italia sta facendo cambiamenti importanti, ora bisogna vedere se saranno attuati. Il fatto che la Commissione europea non abbia riscontrato serie deviazioni dalle regole del patto non significa che i piani lo rispettino appieno. Non pregiudica la nostra analisi finale, non esclude che la Commissione possa adottare procedure nell'ambito del patto. Nelle ultime 2 settimane sono state effettuate consultazioni con alcuni paesi. In alcuni casi l'obiettivo delle consultazioni era di sottolineare delle preoccupazioni legate ai piani di bilancio che sono stati presentati. In altri casi sono state richieste ulteriori informazioni. In tutti i casi i paesi hanno risposto costruttivamente ai nostri rilievi e questo è stato molto positivo. Alcuni paesi hanno cambiato i loro piani di bilanci dopo le consultazioni e trovo che sia un risultato molto positivo. Ho quindi informato il collegio che dopo aver valutato tutte le nuove informazioni non ho identificato nell'immediato gravi inadempienze delle regole stabilite dal patto di stabilità e di crescita. Questa è una buona notizia e mostra come la nostra governance economica stia funzionando. Voglio però sottolineare che questo non vuol dire che piani di bilancio saranno per forza ritenuti conformi nel parere definitivo che verrà espresso entro fine novembre. Non pregiudichiamo l'esito finale, che dipenderà dalla valutazione dei servizi e sarà fatto dalla prossima commissione entro la fine del prossimo mese. Il fatto che non si siano riscontrate serie deviazioni dalle regole del patto non significa che i piani lo rispettino appieno. Non pregiudica la nostra analisi finale e non esclude che la Commissione possa adottare procedure nell'ambito del patto. Così il commissario europeo Katainen. Devo andare rapido, oggi ci sono tante notizie, vedo alcuni che scrivono sulla Ferrari, ma come adesso... Prima ci avete detto che le azioni Fiat, comprare azioni Fiat significava comprare anche un po' di Ferrari, adesso la scorporano. Arriveremo all'approfondimento. C'è chi mi fa notare che la terza guerra d'indipendenza è del 1866-1870. Forse il riferimento è al dato Svimez di ieri, in cui mai c'era stato una natalità così bassa, o meglio morti che superavano i nati nel nostro mezzogiorno, se non in 2 occasioni, e abbiamo detto dopo la terza guerra d'indipendenza, mi sembra che la data ci sia, e dopo il 1918, quindi a conclusione della prima guerra mondiale. Allora, il Ministero alle Infrastrutture fa sapere che non vi è nessun rifinanziamento del ponte sullo stretto di Messina. C'è stata praticamente un'errata lettura della tabella del documento economico finanziario, e meno male, perché conoscete la nostra posizione su quella ipotesi assurda del ponte sullo stretto, mantenendo invariate le linee ferroviarie siciliane. Per quello che riguarda la legge di stabilità, il Centro Studi Confindustria dice che sottrae qualche risorsa al 2014, ma ha una composizione più favorevole alla crescita. E ancora, per quello che riguarda altre notizie che hanno a che fare con l'Italia, la procura di Trani, ieri l'abbiamo letta molto velocemente, ha deciso il rinvio a giudizio di due manager dell'agenzia di rating Fitch, quelle che danno i voti ai governi, e sei manager di Standard & Poor's, accusati di manipolazione del mercato aggravata. Secondo gli inquirenti, tra 2010 e 2012 le agenzie avrebbero diffuso informazioni tendenziose e distorte sull'affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative di risanamento e rilancio economico del governo nel dare i loro giudizi, una vicenda insomma che pesa. È una vicenda definita inquietante dal PM titolare dell'inchiesta, Michele Ruggero, che si è comunque detto pienamente soddisfatto del rinvio a giudizio, come ha dichiarato alla nostra Livia Zancanera. Io ci ho sempre creduto in questa indagine, ho sempre creduto nella serietà dell'impegno della Guardia di Finanza che mi ha affiancato con grande professionalità. Molti erano scettici sull'esito di questa indagine, ma finalmente oggi un giudice terzo ha detto che il PM ha lavorato bene, ha condiviso l'impostazione accusatoria e ha detto che bisogna senz'altro andare a dibattimento. Quindi sotto questo aspetto sono pienamente soddisfatto. Standard & Poor's ha detto che le accuse sono infondate. L'hanno detto anche prima che un giudice dicesse che invece sono fondate. Adesso cosa si aspetta? Beh, ora mi aspetto di celebrare questo dibattimento anche con una certa rapidità, visto che occorre fare massima chiarezza su questa vicenda, che è una vicenda a mio avviso anche particolarmente diciamo così inquietante. Dunque mi auguro che anche i giudici del dibattimento possano dedicare il giusto tempo, il giusto spazio a questo processo per approfondire tutta l'indagine. La Banca d'Italia si è costituita parte civile? La Banca d'Italia è stata presente sempre in udienza come persona offesa, diciamo, dal reato. Credo che si costituirà, però diciamo questo non l'ha ancora fatto. Ha tempo per farlo fino al dibattimento. Allora l'appello, so che alcuni dicono ma guardi che Renzi, il Presidente del Consiglio, ha promesso che tornerà a mettere almeno i soldi che c'erano l'anno scorso per il fondo per le non autosufficienze. Non abbiamo motivo per dubitarne, ma noi l'appello lo facciamo ogni giorno e senza cambiamenti lo faremo in maniera ancora più forte. Ricordo di cosa si tratta. Quest'estate è andata di moda il secchio d'acqua ghiacciato, l'ice bucket, l'ha fatto anche il nostro Presidente del Consiglio. L'obiettivo di quella cosa era aiutare i malati di SLA. Ora, la conseguenza di questo è stata non un aumento dei soldi per la SLA o altre malattie, ma il fatto che nella versione della finanziaria che abbiamo visto il fondo per le autosufficienze è calato, era 500, già calato a 350, mo da 350 milioni scende a 250 milioni, quasi un terzo in meno. Sono i soldi che servono per le famiglie, i genitori, parenti di bambini non autosufficienti, anziani non autosufficienti. Già sono pochi, perché ieri abbiamo avuto il presidente dell'associazione Fish che dice servirebbe almeno il doppio e forse arrivare a un miliardo. Ma dico, già sono pochi, non riduceteli ulteriormente. So che il premier Matteo Renzi ha detto, assumo personalmente l'impegno a riportare la cifra originaria, finché non lo vediamo non ci crediamo. Ieri abbiamo dato anche un elenco di possibili risparmi sugli sprechi veri, che noi siamo per ridurre gli sprechi, non per ridurre il welfare di questo paese quando funziona. Tra l'altro c'è, se non cambieranno le cose, il prossimo 4 novembre vi sarà una manifestazione di protesta davanti a Montecitorio, davanti al Parlamento, delle associazioni con disabilità. Faccio notare, per esempio, così continuiamo a fornire spunti al governo se ci fosse bisogno, che, e mi dispiace tornare sui forestali della regione Calabria, non del ministero, voglio dire, il corpo forestale in generale in Calabria è fonte clientelare, però anche il corpo forestale generale di questo paese, insomma, non è che ci sono 8.000 agenti e da questo punto di vista sono circa 1.000 quelli che si occupano di biodiversità, 1.500 quelli messi a disposizione dei parchi nazionali, e che gestiscono anche castelli, tenute e ville. C'è un reparto volo per lo spegnimento incendi importantissimo e poi c'è la burocrazia interna. Allora, sulla burocrazia interna abbiamo un comando generale, un ispettorato di 700 agenti, 20 comandi regionali, 100 comandi provinciali, 1000 stazioni territoriali, dove ci sono appena 2500 agenti. E quindi se tu ne hai 8000, ma solo 2500 nelle stazioni territoriali, forse il compito del ministro Madia, forse andrebbe rivista la distribuzione delle persone dentro il corpo forestale dello Stato. Le moltiplicazioni di funzioni hanno portato anche alla moltiplicazione dei dirigenti. Pensate che nel corpo forestale ci sono più persone per più personale amministrativo di quello operativo amministrato, cioè più persone che amministrano persone di persone che vengono amministrate. Faccio alcuni esempi: a Prato 4 agenti sul territorio e 9 dirigenti. Con un costo non da poco, e poi tutti gli altri sprechi che raccontiamo da giorni. Non voglio oggi avere un'altra pagina sugli sprechi, ma anche domani torneremo sul fondo per le disabilità, anche dopodomani lo faremo, lunedì, martedì, mercoledì. A 7:36 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo della siderurgia italiana, o meglio, la notizia di cronaca la conoscete, ve l'hanno raccontato i nostri GR24. Purtroppo oggi vi sono stati degli scontri anche pesanti, e su cui si sta aprendo tutta una polemica politica nel corso della manifestazione degli operai della AST di Terni, la CERI di Terni. Erano giunti a Roma per manifestare contro il piano della ThyssenKrupp, avevano cercato di arrivare all'ambasciata tedesca di Roma e c'è stata una carica della polizia, lancio di palline di gomma contro i poliziotti, una durissima telefonata del segretario della FIOM Maurizio Landini con il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. In questo momento Landini poi era sotto il ministero dello sviluppo economico con il lavoratore della acciaieria Terni. Il segretario della CGIL Camusso ha chiesto al governo di dare risposte e stigmatizza le cariche della polizia ai lavoratori. Ci sono persone che rischiano il posto di lavoro, che oggi sono state picchiate dalla polizia, si parla di questo, non di sciocchezze. Altre dichiarazioni, anche il segretario della CISL Anna Maria Furlan ha detto: abbiamo il massimo rispetto nei confronti delle forze dell'ordine, ma è incomprensibile quello che è accaduto oggi al corteo dei lavoratori della ST di Terni. Caricare e picchiare i lavoratori e i dirigenti sindacali non è certamente un bel segnale per il clima generale del paese. Identico commento di fatto anche da parte della UIL. Oggi è successo un fatto grave e inaccettabile, dice Luigi Angeletti, il segretario della UIL. I lavoratori della ST di Terni, che hanno manifestato davanti al consolato tedesco in piazza Indipendenza, sono stati improvvisamente, senza motivo, caricati dalla polizia. Di cosa stiamo parlando, al di là della cronaca purtroppo? Stiamo parlando dell'AST di Terni, uno dei principali produttori al mondo di laminati piani di acciaio inossidabile, giro d'affari di 2 miliardi e 300 milioni di euro, viene venduta nel 2001 alla tedesca ThyssenKrupp e viene incorporata nella divisione Stainless Global. Nel 2012 la divisione Stainless viene acquisita dalla finlandese Outokumpu, ma la Commissione Europea chiede che, per evitare posizioni dominanti, venga ceduta la acciaieria speciale di Terni, e c'è un accordo tra i finlandesi e i tedeschi per vendere la AST. Attualmente gli esuberi previsti sono 550. Il ministro Guidi, riferendo alla Camera sulla vertenza di Terni, ha detto: il governo ha chiesto alla AST di ridurre a meno della metà l'impatto sull'occupazione, quindi 290 invece che 550, da gestire in un periodo di 24 mesi utilizzando la mobilità incentivata. Però il vero punto, a mio avviso, è capire se questo paese ha ancora voglia di avere un ruolo nel mondo dell'acciaio, visto che siamo il secondo produttore in Europa di acciaio, oppure no? Perché la vicenda di Siti Terni va a inserirsi in altre vicende diverse, diversissime, l'Ilva di Taranto, Piombino. Adesso vedo che le acciaierie Galtarossa di Verona hanno dichiarato 2 mesi di cassa integrazione, ma insomma, e di portare questa istanza a livello anche europeo, perché a mio avviso se ce la giochiamo solo in casa, visto che poi la decisione dell'antitrust è di carattere europeo, come scrivono alcuni ascoltatori, rischiamo di fare una guerra tra poveri. Paolo Bricco è il collega del Sole 24 Ore che da sempre segue le crisi del mondo dell'acciaio, e buonasera innanzitutto. Buonasera a te, ma buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, non vorrei ci sembrare quello che parla di altro, però a mio avviso lo scontro adesso ha un impatto politico, i nostri GR24 ci aggiorneranno, ma a mio avviso sullo sfondo è vero che sull'Ilva di Taranto è arrivata una buona notizia ieri, perché il GIP ha accolto la richiesta del commissario straordinario Piero Gnudi, e quindi 1.200.000.000 sequestrati a Adriano Rive, a 2 commercialisti, potranno essere utilizzati dall'Ilva per bonificare il polo dell'Ilva, no? E fare l'aumento di capitale che serve a questa bonifica. Questa è una buona notizia, da un lato. Però sullo sfondo, Paolo, non c'è un... perché se le prendiamo una per una, Galtarossa Verona, Piombino, la Esti di Terni, l'Ilva di Taranto, sono tutti casi molto diversi. Ma sullo sfondo c'è un filo rosso oppure no? Lo vedo solo io. No, assolutamente hai ragione, un filo rosso c'è. C'è il filo rosso di una economia italiana che sta affrontando uno dei passaggi più complessi di tutta la sua storia decennale. Noi siamo usciti dal Novecento, che era stato un secolo ad alta vocazione manifatturiera per il nostro paese, e noi avevamo bisogno di tanto acciaio e lo producevamo in particolare tramite l'economia pubblica, quindi la grande Italsider o grandi gruppi privati lavoravano in regimi sostanzialmente oligopolistici. Ecco, adesso noi ci troviamo in questi ultimi 20 anni ad avere perso quella capacità finanziaria, quella grande capacità di muoverci sia come gruppi capitalistici privati sia come un'economia pubblica ormai ultraridimensionata, e quindi soprattutto nella siderurgia, dove servono tanti soldi per fare funzionare gli impianti, siamo in grave difficoltà. Il problema è che la domanda da parte del nostro sistema economico di acciaio e di derivati esiste, perché continuiamo a essere una grande economia trasformatrice. Il risultato di queste crisi che non riusciamo a gestire a livello sistemico è che l'acciaio e annessi e connessi lo vendono alle nostre piccole, medie e grandi gruppi, imprese, gli indiani, i cinesi, i russi, che intanto si stanno prendendo tutto il nostro mercato interno dal punto di vista commerciale. E poi, chissà, ad esempio, iniziamo a vedere con Ilva, l'ipotesi è quella di un grande gruppo europeo, ma sostanzialmente controllato da una famiglia indiana, come ArcelorMittal sull'Ilva, ecco. Allora, bisogna mettere i puntini su lei, perché è chiaro che quando si parla di disoccupazione, o meglio di esuberi, c'è una componente umana fondamentale, poi c'è anche la componente di carattere economico. Dire, questi esuberi sono necessari oppure no? Nel senso, c'è una crisi del settore, e allora lì si cerca di ridefinire il perimetro dell'occupazione facendo meno danni possibili, ma di fronte a una crisi vera e propria, oppure no? Allora, la prima domanda è: la domanda di acciaio a livello mondiale, perché non è che lavoriamo solo sul mercato interno o mercato europeo, è in crescita oppure no? Perché sennò non si capisce perché gli indiani o Rio Tinto continuano a fare acquisizioni, a spendere soldi per creare i colossi mondiali. Non solo la domanda di acciaio è in crescita, anche la domanda di acciaio in Europa, quindi non solo a livello mondiale, scusami, è in crescita, anche a livello europeo è in crescita. Il problema è che mantenere queste grandi strutture produttive servono dimensioni patrimoniali, societarie, finanziarie di alto livello, che in Italia poco alla volta si sono sgretolate e sono in qualche maniera scomparse. Da qui il grande travaglio attuale. Prendiamo ad esempio il caso di Terni. Terni è un'ottima azienda con ottimi asset tecnologici, con un core business molto, molto, molto centrato. È chiaro che poi gli operai di Terni vanno a Roma, diciamo, molto caldi e molto agitati, perché sanno che non stanno lavorando in un'azienda fallita o fallenda, sanno che stanno lavorando in un'azienda dove 500 dei loro colleghi, il 20-25%, andrà a casa, perché anche legittimamente i tedeschi di ThyssenKrupp hanno deciso che loro da quel settore escono, quindi riportano in maniera draconiana, un po' violenta, all'equilibrio finanziario la società italiana, e poi la metteranno in vendita al miglior offerente. Il problema è che proprio è un problema di transizione, non ci sono in Italia i capitali necessari per intervenire. Però scusami Paolo, alla luce di questo ragionamento, allora hanno ragione alcuni ascoltatori che dicono, vabbè, se non riusciamo a fare un polo italiano con capitali italiani dell'acciaio, beh, almeno salviamo la parte produttiva con investimenti di grandi colossi mondiali, nel senso che noi tuttora produciamo 27 milioni di tonnellate d'acciaio, no? Certo. In 42 siti, con 36.000 circa occupati, quindi è un numero ancora molto molto importante. Certo. E non a caso siamo i secondi in Europa come produzione siderurgica. Allora, se non si trovano i capitali, vedi il caso dell'Ilva di Taranto, che non c'entra con le siti Terni, ci mancherebbe, ma se non si trovano i capitali italiani, se non c'è una cordata di cavalieri italiani, io potrei dirti meglio mantenere la produzione e gli occupati in Italia, anche se poi l'azionista dovesse essere ArcelorMittal. Certo. E anche nel caso della Stiti di Terni, dove c'è una responsabilità forte dell'Europa, non dimentichiamocelo, chi obbligò a vendere, a cedere per eccesso di posizione dominante la ST di Terni, perché sennò diciamo la storia solo parzialmente, se non c'è nessuno prendiamo un capitale esterno. Sono assolutamente d'accordo, il problema però è che in questi casi in settori strategici come la siderurgia si accetta l'idea, e probabilmente è meglio accettare l'idea piuttosto che non avere nulla più, che i quartieri generali poi siano lontani dai centri produttivi. A quel punto l'unica possibilità è avere un governo solido e con un pensiero forte in tema di politiche industriali, perché se tu hai un governo solido e con un pensiero forte e la tua industria è controllata da capitali stranieri, comunque si riesce a trovare un equilibrio tra le esigenze di redditività dei capitali stranieri e le esigenze occupazionali. Diciamola tutta, se tu in Francia, esatto, così andiamo proprio a pane vino al vino, se tu in Francia osi fare alcune cose che sono fatte in Italia, ti becchi un governo e poi anche tutta la classe politica francese che inizia a bastonarti. Allora anche l'azionista straniero non è che non faccia dei ragionamenti di carattere economico, sennò sarebbe un pazzo. Però diciamo è inutile far finta che non esista una variabile politica. Di fronte a un governo, a un'opinione pubblica, a un sistema paese forte, sta più attento, cerca di mediare di più. Ha un atteggiamento, se vuoi, meno così, non spregiudicato, anche spregiudicato, delle volte meno coloniale. Certo che se tu non hai una controparte forte, ti permetti di dire bene, chiudiamo lì, per tenere aperto da un'altra parte. Altra domanda, sì, alcuni ascoltatori ci dicono, ma non avete capito, questo è il mantra in questo paese, che bisogna vivere di turismo e di cibo. No, bisogna vivere anche di turismo e di Made in Italy e di agroalimentare. Ma non dimentichiamo che insomma la metà meccanica è il primo contributo come settore industriale al PIL di questo paese. Non è che possiamo vivere tutti quanti con il biologico e i presidi del territorio, o producendo vino o cipolle di Tropea, col massimo rispetto per la cipolla di Tropea. Vorrei anche mantenere una componente industriale in questo paese, se si riesce. Cosa dovrebbe fare, Paolo, il governo a questo punto, dopo il traffico? Strade in diretta. Sera, 17:48 minuti, sulla 22 del Brennero si incontrano 6 km di coda per un incidente tra Pegognaga e Mantova Sud verso il confine di Stato. Traffico intenso attorno a tutte le grandi aree urbane, in particolare vi segnalo code per un incidente a Roma sul grande raccordo anulare tra Roma Nord e l'innesto con la 24 sulla carreggiata interna. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi tra mezz'ora circa. Focus Economia. Allora Paolo Bricco, che cosa dovrebbe fare il governo? Andare a Bruxelles e chiedere una ridefinizione del politica antitrust? Mi sembra che i tempi sono molto lunghi, o se no? O se no deve assolutamente chiarire, partendo dall'Ilva, quali saranno le condizioni a cui Ilva stessa molto probabilmente verrà ceduta ai franco-indiani di ArcelorMittal. Sì, ma su Terni? Su Terni io credo che davvero a questo punto, più che andare a Bruxelles, sia necessario andare a Berlino, e parlare con la Merkel, che sappiamo essere molto influente sui vertici della siderurgia anche privata tedesca, perché a questo punto l'unica possibilità è riuscire ulteriormente a ridurre l'impatto di una decisione molto dura che i tedeschi hanno già preso due volte, su cui sono ritornati sui loro passi in quest'estate. Io credo che già sarebbe un buon successo di natura tattica se la ministro Guidi riuscisse a portare a 250 da 550 gli esuberi annunciati. Ecco, però tu hai ragione anche nel dire, per non ritrovarci fra qualche mese a fare una puntata analoga, nel caso dell'ILVA, che è il prossimo dossier, certo, in cui probabilmente verrà ceduta a ArcelorMittal, che da quello che ci disse anche Piero Gnudi, commissario straordinario a Cernobbio, era l'unica offerta, l'offerta principale arrivata sul tavolo, mettere dei paletti subito. Sì, mettere perché se no ci ritroviamo fra qualche mese, appena ArcelorMittal fa un ragionamento anche corretto di carattere strategico e dice preferisco investire più lì e ridurre la produzione dell'IVA, ci ritroviamo a capo 12, no? Ci ritroviamo di nuovo dall'inizio. Contestualmente io credo che sia importante anche che il governo guardi bene sul tavolo, è anche arrivata un'altra manifestazione di interesse pochi giorni fa da parte di Arvedi, dietro cui pare che vi sia, come dire, anche diciamo l'attenzione della Cassa Depositi e Prestiti, diciamo così, per una forma di sostegno finanziario, alla ricerca anche lì di un partner straniero. Ma il gruppo Arvedi di Cremona. Il gruppo Arvedi di Cremona, come il gruppo Marcegaglia di Mantova, è partner di minoranza di ArcelorMittal. In ogni caso è importante che, anche facendo perno sulla dimensione anche straniera ma anche nazionale di qualunque cordata si stia appalesando, è importante che vengano definiti subito dei paletti per provare a capire se si riesce a mantenere bene il perimetro occupazionale di Taranto, anche perché Taranto funziona solo e soltanto se può andare a pieno regime con tutto il ciclo integrale. Ricordiamolo, la più grande acciaieria d'Europa, ha 12.000 addetti, ha una capacità produttiva di 9 milioni all'anno di tonnellate, è davvero un mostro dal punto di vista industriale e produttivo di grande efficienza, che può funzionare solo e soltanto con quella dimensione. Sì, e questo per quello che riguarda Taranto. Per quello che riguarda Terni, mi sembra di capire che in questo momento l'unica soluzione sia contenere il più possibile il danno. Il danno non sarà evitabile. Contenere il danno vuol dire passare da 550 a 290 esuberi, facendo pressione, moral suasion anche in Germania. Così a chi mi chiede ma cosa serve la politica industriale, serve anche queste cose, non a dire che cosa devi fare tu e cosa deve fare quell'altro, modello Unione Sovietica. Serve a dare un indirizzo al paese e a far sentire che c'è un paese che ha qualche idea chiara e non poche idee ma confuse. Nel senso, qualche idea chiara e che decide che il settore siderurgico è un settore strategico per questo paese. Questa è la politica industriale di alto livello. Grazie a Paolo Bricco, la Borsa. Allora, vedo molti messaggi, non posso leggerli tutti. Qualcuno mi dice sono stupito, per mangiare dobbiamo andare a leccare insomma, i tedeschi. No, vabbè, la proprietà è tedesca, anzi sarebbe un'operazione diciamo più politica che economica, avere un tavolo aperto, una linea aperta con Angela Merkel per cercare di capire qual è l'impatto, come si può ridurre l'impatto delle decisioni della Thyssen su Terni. Del fronte sindacale abbiate un po' di pazienza, parleremo dopo, perché faremo anche un bilancio della legge di stabilità, Commissione Europea, lo scontro continua anche con i sindacati da parte del governo. Vorrei invece commentare la borsa, al di là di Fiat che è il vero caso di giornata, più 12,80%, Exor più 7%, ne parliamo nella seconda ora del programma. Malissimo tutte le banche di nuovo oggi, Monte dei Paschi meno 8,20%, Popolare Emilia Romagna meno 5,80% come la Pop Milano e il Banco Popolare, il 4,70% lo perde UbiBanca, il 4,5% Unicredit, il 3,80% Intesa San Paolo, male di nuovo Saipem dopo la revisione delle prospettive meno 6%. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, le banche. Sì, allora, oggi è stata di un'altra giornata molto difficile per le banche, sono andate male quelle italiane, ma sono andate anche male quelle europee, seppur con cali più contenuti. Non ci sono notizie particolari o diverse, si continua sempre a ragionare nel post stress test. Oggi, fra l'altro, è stata di nuovo un'altra giornata molto negativa per Monte dei Paschi, che ha ceduto l'8,23%. Ci si continua a interrogare su cosa farà la banca per far fronte a questi ammanchi di capitali segnalati dalla questo deficit di capitale segnato dalla BCE, e fra l'altro oggi sono arrivate anche le parole del presidente Profumo, che ha parlato molto in questi giorni, ma in un'intervista concessa anche a Radio Cora si è spinto un attimino più in là, ha detto che a questo punto la questione dell'indipendenza del Monte potrebbe essere riconsiderata. E quindi apre l'ipotesi anche un'aggregazione, questo, no? Aprendo l'ipotesi di un'aggregazione e forse anche un aumento di capitale che favorisca questa aggregazione. Ecco. Allora, tra gli altri titoli, vabbè, Saipem di nuovo sui i conti di ieri e le prospettive, con un'ipotesi di aumento di capitale a questo punto per Saipem, Guido? Sì, perché comunque la società ha un obiettivo per il 2017 di riportare il debito attorno ai 2 miliardi. Le prospettive date ieri sono quelle di un indebitamento che salirà vicino ai 5 miliardi, a 4,7 miliardi, per cui nella conference call con gli analisti ieri non è stata esclusa l'ipotesi di un aumento di capitale per riportare l'indebitamento a un livello più tenue. La questione del debito per Saipem, certo, è anche particolare, visto che è molto legata all'infragruppo con Eni, che è il suo principale azionista. E poi ST Microelectronics meno 10,15% dopo le prospettive negative per il quarto trimestre. Grazie intanto a Guido Maurino, ma la borsa continua dopo GR24, perché ci occuperemo di Fiat, del botto in positivo che ha fatto, ripeto, più di 12,80% Fiat Chrysler e più 7% la controllante Exor. Oggi i conti e l'annuncio che la Ferrari verrà scorporata e quotata in borsa. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo della borsa, al di là degli indici, avete ragione, non li abbiamo detti prima, meno 1,60% Milano nel suo totale, Parigi invariata, Francoforte più 0,16, Londra più 0,80, l'America meno 0,15, Milano quindi ampiamente la peggiore delle borse europee, per via dei bancari che prima commentavamo, cali pesantissimi, e anche di ST Microelectronics sulle prospettive del quarto trimestre. E poi la vicenda Saipem. Molto bene invece Fiat Chrysler più 12,80%, Exor più 7% dopo aver presentato i conti. Ricavi del terzo trimestre più 14%, utile netto a 23,6 miliardi, utile netto nel terzo trimestre in linea con le attese a 188 milioni. L'indebitamento sale di 1,7 miliardi per effetto della stagionalità, dice Fiat, confermati gli obiettivi del 2014, l'utile netto a 600-800 milioni. E poi la vicenda Ferrari. Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Cos'è che è piaciuto così tanto? Perché voglio dire, i conti sono buoni, ma insomma più 12-80% Fiat Chrysler, più 7% Exor. Dunque, i conti in realtà non sono piaciuti, cioè dopo l'annuncio dei conti, ma soprattutto dell'aumento del debito a 11 miliardi e 4, il titolo aveva perso 4%. Poi è arrivato a stretto giro il comunicato sullo scorporo Ferrari e sul convertendo e il titolo si è impennato, è arrivato fino a più 20. Quindi è piaciuto tutto quello che rafforza il capitale di Fiat. Allora, il convertendo è il via libera che ha dato il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler a un convertendo per fino a massimo 2 miliardi e mezzo di dollari di obbligazioni a conversione obbligatoria mediante un'offerta registrata presso la SEC. Cioè un aumento di capitale, diciamo, per far capire a tutti. È un aumento, no, di capitale differito che permette di non gravare adesso sulle azioni, quindi non diluisce e non fa cascare il titolo adesso, e però è considerato dalle agenzie di rating come un quasi equity, come si dice, cioè rafforza già da adesso il capitale. Quindi è per questo che è stata la misura preferita. La Exor degli Agnelli ha già detto che sottoscrive, quindi non si farà diluire, manterrà la sua quota in Fiat Chrysler, che ricordiamo è attualmente attualmente poco più del 30% del capitale e il 47% dei diritti di voto, quindi un controllo molto tranquillo. Al di là di quello c'è lo scorporo Ferrari, che è la notizia del giorno. Quello, infatti lì volevo arrivare, perché Ferrari sarà scorporata, vuol dire che farà titolo a sé in borsa, esatto. sarà quotata in America, New York e in un'altra piazza europea, se ho ben capito. Ma veramente, con massimo rispetto per la Ferrari, si giustifica un rialzo del genere con la Ferrari? Marchione ha detto: abbiamo una stima interna del valore di Ferrari, ma sarà il mercato a dare una valutazione e credo che saremo positivamente sorpresi. Ha sempre combattuto qualsiasi stima che gli analisti gli fornivano dicendo che Ferrari valeva di più. La sua tesi è che Ferrari non è un titolo di automobilistico, ma un titolo del lusso, quindi può essere accostato a una Gucci, a una Louis Vuitton, non lo so. Lo vedremo naturalmente entro sei mesi, quando Ferrari andrà effettivamente sul mercato. Se dovesse valere così tanto, con i multipli sull'EBITDA di questi titoli del lusso, ovviamente varrebbe al di sopra di quei 5 miliardi di euro che gli analisti finora hanno fissato come ipotesi massima. Ricordiamo tra l'altro che l'intera Fiat Chrysler, Ferrari compresa, valeva ieri poco più di 10 miliardi di euro, adesso è salita a 11 o 12, però appunto, quindi se Ferrari valesse molto più di 5 sarebbe paradossalmente più di metà del gruppo. È vero che Ferrari guadagna bene ed è un marchio, come dice Marchionne, senza pari, però ripeto, sì, come ha detto lui, lasciamo valutare al mercato. Ecco, ma tra l'altro è importante precisare, Andrea, che la Fiat collocherà il 10%, se ho ben capito, della Ferrari in borsa. Allora, no? L'operazione, cerco di spiegarla in un attimo. Fiat prima venderà 10%, Fiat al 90%, il 10% in mano a Piero Ferrari, che è il figlio di Enzo, certo, Ferrari. Fiat al 90 ne vende il 10, quindi i soldi andranno a Fiat Chrysler e la rafforzeranno come capitale. Si parla di anche qui 3, 4, 5, 600 milioni di euro che vanno a rafforzare Fiat. Dopodiché l'80% che rimane verrà distribuito ai soci Fiat, cioè come è successo per Fiat Industrial 3 anni fa. Chi attualmente ha un'azione Fiat Chrysler riceverà un'azione Fiat Chrysler nuova, o comunque si terrà la sua, e in più un'azione Ferrari, che sarà un po' meno del 100%, perché, certo, appunto c'è solo l'80%, metti che abbia 100 azioni Fiat, avrà 80 azioni Ferrari, quindi manterrà le stesse quote. Ferrari sarà un'azienda indipendente, ma che, come nel caso di Fiat Industrial, ha lo stesso azionista di controllo, che è la Exor della famiglia Agnelli. Quindi gli Agnelli avranno Fiat Industrial, che adesso è diventata CNH Industrial, Fiat Chrysler con l'auto e basta, auto diciamo senza lusso ma con i componenti della Marelli, e Ferrari a parte. Questo naturalmente, al di là dell'effetto odierno in borsa e di tirare fuori il capitale, in qualche modo diciamo di ridurre lo sconto holding, per così dire, che era insito nel titolo Fiat Chrysler fino a ieri, l'effetto di flessibilizzare, di dare più opzioni strategiche, per dirla in italiano chiaro: se domani si presentasse qualcuno che vuole fare una grande alleanza con Fiat, con Fiat Chrysler, gli Agnelli potrebbero farla tranquillamente, avendo già da parte Ferrari sfilata, per così dire, e quindi che potrebbero tenerla fuori da un'eventuale alleanza. Viceversa, se domani sempre arrivasse uno sceicco che, secondo il quale la Ferrari vale 20 miliardi di euro, uno potrebbe vendergli la Ferrari senza coinvolgere, sì, diciamo, Fiat Chrysler, diciamo, è quello che sto facendo. Comunque, naturalmente è chiaro, però il meccanismo è quello che tu hai descritto, sia nella parte che verrà ceduta sul mercato per poi tornare sotto forma di azioni agli azionisti, una parte, sia sul collocamento in borsa. Si ha qualche idea, prima di chiudere, Andrea, della borsa europea su cui dovrebbe essere quotata Ferrari? Dovrebbe essere al 99% Piazza Affari, visto che la holding Fiat Chrysler è comunque ancora quotata a Piazza Affari. Non è chiaro invece se sarà domiciliata per esempio in Olanda o in Italia, e non è chiaro se ci sarà il meccanismo dei diritti di voto doppi come per Fiat Chrysler. Grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore. Il traffico e poi la legge di stabilità, o meglio le giustificazioni arrivate oggi dal commissario Katainen sul perché l'Italia non abbia ricevuto particolari rilievi. Ieri sera era già arrivata la nota della Commissione Europea su Italia e Francia, ma anche Katainen ha detto attenzione, questo non vuol dire che non vi potrebbero essere in futuro altre osservazioni. E poi quello che sta succedendo tra governo e sindacati, complice anche gli scontri di oggi con gli operai dell'acciaieria di Terni, di cui abbiamo già parlato, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Anche qua io ho molto rispetto, a differenza di altri, per le piazze e per le manifestazioni. Mi lasci dire che sono rimasta molto turbata dal leggere le parole stamattina di Camusso che dice a qualche giornale che Renzi, il governo Renzi è Renzi al governo per i poteri forti. La Camusso, diciamo, io potrei dire, non lo farò, che la Camusso è eletta con tessere, diciamo, false, o che quella ma piazza cosa, è stata riempita, diciamo, con Allora, ci sono delle volte in cui star zitti è meglio. Forse questo è il caso per l'eurodeputata Pina Picerno, che poi si è scusata. Dopo non volevo accusare la CGIL e la Camusso di essere eletta con tessere false, ho chiesto solo rispetto per il governo. Dico, il timing, il tempismo è stato quanto mai inopportuno, perché poche ore dopo vi è stata la carica della polizia agli operai della ST Terni che manifestavano di fronte al consolato tedesco, e di nuovo vi abbiamo raccontato anche tutte le reazioni del mondo sindacale. E la CGIL è indignata per la falsità della Picerno, ma insomma è chiaro che in questo momento si sta non dico incagliando, ma un pochino incrostando il fronte dei rapporti con il sindacato. Un conto è dire secondo me Renzi lì ha grosso sostegno dell'opinione pubblica, noi dobbiamo fare le nostre riforme non semplicemente, non solo se non c'è il veto del sindacato, e quindi ascoltiamo tutti ma poi andiamo avanti, e un conto è aprire un fronte diretto con il sindacato. Ma non c'è solo questo, cioè, ripeto, c'è anche la lettera che abbiamo inviato a Bruxelles, e il fatto che Bruxelles abbia detto ieri un primo sì: nessuna grave violazione della legge del patto delle regole del patto di stabilità nella legge finanziaria italiana. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Guido, diciamo che se fosse un programma calcistico potremmo dire che con Bruxelles una vittoria parziale al primo tempo del governo c'è, nel senso che sì, abbiamo accettato di ridurre dello 0,3% ulteriormente il deficit, e Bruxelles di fatto ha dato il via libera. Sul fronte interno invece la giornata di oggi, pur su vicende molto diverse, la Picerno parlava nel programma della Rai Agorà, gli scontri si sono avuti in Piazza Indipendenza per il consolato tedesco, però insomma il rischio che quello che era una linea, dire noi decidiamo, non possiamo restare ostaggio di tutte le parti sociali italiane, di tutti i veti incrociati, diventi un confronto governo contro sindacato, io un po' lo vedo. Beh, certamente, del resto diciamo lo scorso weekend poi successivamente il lunedì, quando il governo ha incontrato le parti sociali, è emerso chiaramente, diciamo, il governo ha fatto un passo avanti su questo terreno dicendo che non tratta con gli industriali, non tratta con i sindacati. La polemica è stata molto dura, quella che ha avanzato fin da lunedì la segretaria del CGIL Camusso. Quindi su questo terreno diciamo siamo passati diciamo da una critica al sistema della concertazione, abbiamo fatto un passaggio più, dove peraltro sul piano formale ha ragione Renzi, nel senso che la legge di bilancio è nella disposizione del governo istituzionalmente, no? E quindi nelle prerogative del governo, e quindi diciamo trattare su questo, come purtroppo è avvenuto per decenni, non è che ci abbia molto. Infatti portato... io ho detto banalmente che secondo me su questo, piace o non piace, buona parte dell'opinione pubblica italiana è d'accordo con Renzi, nel senso, non lo vediamo anche nel messaggio, cioè sì, il governo deve decidere, altrimenti resti bloccato. Esatto. E non fai nessuna riforma vera, perché le varie organizzazioni di rappresentanza poi hanno giustamente il loro interesse e rappresentano i loro associati, Però poi finisce che tutto si blocca, oppure fai delle riforme annacquate o distribuisci a pioggia. Detto questo, mi sembra che oggi vi sia un'ulteriore evoluzione. Ecco, forse. Prego. Certo, c'è un'ulteriore evoluzione, c'è una polemica molto dura che ha fatto il segretario della FIOM Landini contro il governo, ha chiesto spiegazioni istituzionali al Parlamento sugli episodi di Piazza Indipendenza, ma al di là, diciamo, dell'incidente di questa mattina, mi sembra che ci sia, diciamo, corra parecchia, diciamo, tensione in questo momento, ed è curioso, diciamo, però, diciamo, è curioso notare che noi sappiamo che, diciamo, il rapporto tra Landini e Renzi all'inizio, diciamo, è stato un rapporto, no, molto, molto stretto, molto buono, e per ammissione dello stesso Renzi continua a essere, diciamo, un terreno di confronto comune, diciamo. Io credo che poi ovviamente una contestazione da sinistra alla CGIL politicamente sia, diciamo, per Renzi anche, diciamo, un dato importante. E quindi, diciamo, sono molte cose, diciamo, che si mixano insieme in questo momento. Di certo la tensione è, diciamo, direi che è aumentata, ecco, nelle ultime 48 ore. Ecco, adesso chiuso, noi ci siamo occupati per due settimane del capitolo europeo, nel senso che c'era una legge di stabilità che è andata a Bruxelles ha mosso le sue obiezioni, la polemica sulla lettera pubblicata non pubblicata. La Francia, che ha fatto la voce grossa, ma poi in realtà si è adeguata, perché non c'è solo l'Italia, la Francia aveva detto no, non potremmo toccare neanche un euro, ha tagliato 3 miliardi e 7 dal deficit, perché poi alla fine nessun paese vuole essere veramente finire, diciamo, nelle reprimende di Bruxelles. Adesso il fronte europeo per un po' immagino sarà più calmo, anche se Katainen, giusto per fare sempre il gufo, dice questo non vuol dire che non potremo avanzare obiezioni più avanti, ma insomma il fronte europeo sembra più calmo. A questo punto mi sembra di poter dire, ma correggimi Guido, che tutto lo scontro si sposterà sul Jobs Act, lo scontro politico interno, anche alla luce di questo rapporto col sindacato. Esattamente, questo, diciamo, ha una doppia valenza sul piano interno e sul piano esterno nei rapporti con l'Europa, e direi anche nei rapporti con i mercati in generale. E quindi questo sarà il prossimo terreno di possibile incontro o diciamo scontro, e lo è su due piani, in Italia e a Bruxelles. Vorrei notare che ovviamente la nuova Commissione europea, che entra in funzione dal 1° di novembre, entro la metà di novembre esprimerà a sua volta, diciamo, un giudizio sulla nostra legge di stabilità. Quindi diciamo che il primo tempo si è chiuso con diciamo un piccolo vantaggio per l'Italia e anche per la Francia, perché tutta la Francia sta ben sopra il famoso limite del 3% del rapporto del deficit PIL. L'Italia ha, diciamo, prospettava una correzione modesta pari allo 0,1, la Commissione diceva no, devi correggere per lo 0,5, si sono accordati sullo 0,3%, quindi sostanzialmente è una soluzione di compromesso che però ovviamente è una tregua armata, rimane, perché ovviamente a novembre ci sarà una discussione di taglio diverso con la nuova Commissione, quindi non credo che noi dobbiamo aspettarci degli sconti particolari. Non intendevo questo, intendevo dire che però adesso, nelle prossime settimane, tutto il tema che era il confronto Roma-Bruxelles, diciamo, per un certo periodo resterà più sopito, poi vedremo se vi saranno altre obiezioni. E anche alla luce delle parole del commissario Katainen oggi, adesso vedremo, le riforme italiane sono importanti, vedremo se saranno attuati questi cambiamenti importanti, si focalizza sulla riforma del mercato del lavoro, che è quella che Guido, noi abbiamo più, tra virgolette, venduto in Europa come riforma, no? Non è che all'Europa interessi molto la riforma del meccanismo elettorale italiano, interessa di più la riforma del mercato del lavoro. Non c'è dubbio, è la riforma del mercato del lavoro, ripeto, sul doppio fronte, quello dell'Europa, che certamente è un fronte importante, ma in questo caso anche nel, diciamo, nell'esame quotidiano dei mercati, perché sappiamo che le aspettative che sono state innescate dalla proposta di Renzi sono state valutate con grandissima attenzione a New York, a Londra, sappiamo di quanti incontri ci sono stati su questo terreno e tutti hanno messo l'accento sulla riforma del mercato. Riforma. Beh, è anche il test del governo Renzi per capire la sua forza, non solo nei rapporti con le altre parti sociali, non è solo il problema della forza nei confronti della CGIL, della CISL, della UIL, delle associazioni di categoria, è anche nella forza politica del governo, questo è il riferimento di Guido Gentili, a cui guardano anche i mercati, non solo i mercati, anche gli altri partner europei, a dire: se tu riesci a far passare la riforma del mercato del lavoro come l'avevi immaginata, vuol dire che hai una forza politica all'esterno del Parlamento, ma anche all'interno del Parlamento. Staremo a vedere. Grazie all'editorialista del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente. Swissquote, un leader globale nel trading sul Forex, vi ha presentato Focus Economia.